buongiorno a te, Mrs. Robinson, quando preghi prega un po' per noi. Oh, oh, oh, felice te, Mrs. Robinson, dalla cielo più di quanto sai. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Un po' indiscreto, dimmi cosa fai e come passi lunghi giorni tuoi, come vedi il mondo dagli occhiali che tu hai. Tu lo sogni ancora com'era il tempo tuoi. Un giorno a te, Mrs. Robinson, quando preghi prega un po' per noi. Oh, oh, oh. Mrs. Robinson, dammi il cielo più di quanto sai. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Vecchia casa dove il sole non si vede mai, fra rose finte di ricordi, quattro amici grigi e vecchi vivono con. Se ne andranno più. Buongiorno a te, Mrs. Robinson, quando preghi prega un po' per noi. Oh, oh, oh, felice te, Mrs. Robinson, dammi il cielo più di quanto sai. Hey, hey, hey. Sarà